Ad alta voce, Elia Shilton legge Le linee d'ombra, dal libro The Shadow Lines di Amitav Ghosh, copyright 1988, tutti i diritti riservati. Traduzione di Anna Natotti. Seconda puntata. Andai in Inghilterra con una borsa di studio di un anno per raccogliere materiale all'India Office Library, dove erano conservati tutti i documenti dell'epoca coloniale. Stavo preparando un dottorato sul commercio di tessuti fra India e Inghilterra nel XIX secolo. Trascorse oltre un mese dal mio arrivo a Londra prima che potessi rivedere May Price. Dovetti affrontare molte complicazioni per trovarla. Suonava in un'orchestra e viveva per conto proprio in una camera ammobiliata di Islington. Mrs. Price mi diede il suo numero e io la chiamai parecchie volte, ma non era mai in casa. Poi, una mattina, mentre scorrevo la pagina degli spettacoli del Guardian, lessi che la sua orchestra avrebbe suonato il concerto per violoncello di Dvorak quella sera al Royal Festival Hall. Mi ci recai con molto anticipo. Mi potevo permettere soltanto un biglietto per un posto sulle panche che stanno dietro l'orchestra e avevo sentito dire che talvolta si esaurivano molto presto. In realtà riuscii a trovare un posto a sedere senza alcuna difficoltà. Il solista era un violoncellista svedese che evidentemente non costituiva un grande richiamo. Quando entrai, vidi che il mio posto si trovava proprio alle spalle della sezione degli archi. La scorsi quasi subito. Era affaccendata intorno al suo leggio e indossava, come tutte le altre donne dell'orchestra, una gonna nera e una camicetta bianca. La osservai mentre sistemava lo spartito, chiacchierando con un attempato suonatore di corno che sedeva di fronte a lei. Aveva esattamente lo stesso taglio di capelli di quando era venuta a Calcutta. Le scendevano folti e dritti sulle spalle, velando il collo e i lati del viso, ma io li ricordavo neri e lucenti, mentre ora, sotto le luci dei riflettori, brillavano di riflessi grigi. Le spalle, sempre piuttosto larghe rispetto alla sua altezza, si erano appesantite. Sembrava quasi sbilanciata ora, perché in vita non aveva un centimetro in più. Quando si voltò per dire qualcosa a una donna seduta nella fila dietro di lei, colsi il suo volto di sfuggita. Rughe profonde univano gli angoli della bocca al naso e gli occhi, che un tempo erano stati di chiaro smalto blu, erano adesso scoloriti e sporgenti. Osservandola durante il concerto, pensavo a com'era quando era stata da noi a Calcutta tanti anni prima. Ci eravamo trasferiti in una casa più grande allora e a lei era stata assegnata la stanza degli ospiti al piano di sotto. La sera, quando riuscivo a eludere la sorveglianza di mia madre e di mia nonna, che non volevano che la disturbassi, scivolavo nella sua stanza, mi sedevo sul pavimento e restavo ad ascoltarla mentre eseguiva le scale con il flauto dolce che aveva portato con sé per esercitarsi. A volte arrossiva imbarazzata, posava il flauto e diceva: «Senti, deve essere atrocemente noioso per te ascoltare tutte queste orribili scale». Io però non volevo che smettesse, insistevo perché continuasse a suonare e restavo a guardarla estasiato mentre soffiava nel flauto, accigliata, i muscoli delle guance tesi per la concentrazione. Non era accigliata durante il concerto al Festival Hall. Era evidente che la sua padronanza dello strumento ormai era tale che non doveva pensare molto alla musica. Al termine del concerto, mentre gli orchestrali erano occupati a riporre i propri strumenti, rimasi seduto aspettando che il pubblico si allontanasse. Poi mi sporsi oltre la balaustra e la chiamai per nome. Rivolse lo sguardo verso l'alto, aguzzando gli occhi. Mi vide e mi rispose con un sorriso educato e perplesso. Poi, con mia sorpresa, mi riconobbe. Il suo viso si illuminò e mi fece un cenno con la mano. Indicando l'uscita, articolò con le labbra: «Ci vediamo fuori». Ci incontrammo a metà strada del foyer e restammo un attimo immobili, entrambi confusi. Lei mi porse una mano esitante, poi subito sorrise, si levò sulla punta dei piedi, avvicinò a sé la mia testa e mi baciò sulle guance. L'oboe, nell'astuccio di cuoio, mi sbatteva contro il collo. Uscendo, le chiesi come avesse fatto a riconoscermi dopo tanti anni. Riflettei un attimo, poi rispose: «Suppongo di aver fatto 2 più 2, sapevo che eri a Londra, me lo ha detto la mamma». Si fermò a valutarmi con una rapida occhiata. «Inoltre», aggiunse, «non sei privo di una familiare somiglianza con il ragazzo che ho conosciuto a Calcutta e che ricordavo benissimo». Mentre mi guidava alla stazione di Waterloo della metropolitana attraverso un dedalo di passaggi pedonali in cemento, si fermò per chiedermi: «Hai qualche programma per il resto della serata?» Scossi la testa, cercando di non mostrarmi troppo impaziente. «Beh», disse fermandosi a riflettere, «potresti venire a cena da me. Non ho molto da offrirti, solo un'insalata di germogli di fagioli e pesce alla griglia. Non so se ti va questo genere di cose». «Sì», annuì, «sarebbe davvero piacevole». Mi sorrise di sfuggita. «Se può consolarti, sappi che ho coltivato io stessa i fagioli». Abitava al primo piano di una casa affacciata su Islington Green. Appena mise piede in casa e girò l'interruttore della luce, si accese automaticamente anche il televisore. Attraversò la stanza di corsa e lo spense. Volgendosi verso di me con aria colpevole, disse: «Lo lascio sempre acceso, è la mia sola vera debolezza. Riempie la stanza, sembra piuttosto vuota altrimenti». Con un piccolo inchino formale, leggermente ironico, May mi invitò ad accomodarmi e a dare un'occhiata agli scaffali della libreria mentre lei preparava la cena. Curiosando tra la sua collezione di romanzi russi in edizione economica, gli spartiti in miniatura e i libri di medicina illustrata, scorsi una vecchia fotografia. Era fissata, insieme a una dozzina di ritagli di carta, su una di quelle larghe tavolette che avevo visto appese davanti alla scrivania di molti studenti londinesi. Era una fotografia di May scattata molto tempo prima. Dissi che la fotografia doveva essere stata scattata molto tempo prima. Se la memoria non mi ingannava, lei vi appariva esattamente come l'avevo vista quando era stata nostra ospite a Calcutta. «Non proprio», disse con voce ironicamente precisa e gli occhi abbassati a guardare il forno. «Fu scattata almeno 2 anni prima». Alzò gli occhi verso di me, si pulì le mani e, sollevando le sopracciglia con aria stupita, continuò: «Ho scelto proprio una copia di quella fotografia molto tempo fa per mandarla a Tridib». Più tardi, durante la cena, scoprì che nel 1959, quando Tridib aveva 27 anni e lei 19, avevano dato inizio a una lunga corrispondenza. Tridib aveva scritto per primo, mi raccontò, fin da quando aveva lasciato Londra nel 1940, per Natale aveva sempre mandato una cartolina a Mrs. Price. Quell'anno, però, ne aveva mandate 2, una a sua madre e una a lei. Le aveva scritto poche righe, in cui diceva che la ricordava assai bene, anche se probabilmente lei non si ricordava di lui, e che sarebbe stato un vero peccato perdere i contatti, perciò sperava che lei trovasse il tempo per scrivergli. Lei si era commossa e incuriosita. aveva già sentito parlare molto di lui. Sorridendo di quei ricordi, May mi raccontò che la cartolina di Tridib era arrivata giusto quando lei stava cercando di uscire da una cotta adolescenziale per un suonatore di trombone suo compagno di scuola, che non aveva mostrato il minimo interesse per lei e non era stato per nulla delicato nel farglielo capire. Era piacevole pensare che ci fosse qualcuno che voleva esserle amico. Gli aveva risposto, da quel momento si erano scritti regolarmente, di solito lettere brevi in cui parlavano del più o del meno. Ben presto, come tutti gli amici di penna, si erano scambiati le fotografie. A me piace pensare che Tridib avesse ricevuto la fotografia di May proprio il giorno in cui ricomparve a Gole Park e ci raccontò tutta quella storia inventata. Mia nonna si sbagliava rispetto a Tridib. Lui non era in alcun modo paragonabile agli incalliti amanti del pettegolezzo che passavano la maggior parte del loro tempo sugli angoli delle strade di Gole Park. Tridib, a modo suo, era una specie di recluso. Anche se ero solo bambino, capivo che il luogo in cui era davvero felice era la sua stanza tappezzata di libri all'ultimo piano della vecchia casa di famiglia. Sua nipote Ayla e io, di solito, eravamo in disaccordo su questo punto. Una volta, quando avevamo circa 16 anni, ne parlammo. Io stavo per entrare al college a Delhi, mentre Ayla e i suoi genitori erano appena rientrati dall'Indonesia per una breve vacanza. Vennero a farci visita subito dopo il loro arrivo. Ricordo ancora il modo in cui mia nonna rimase a bocca aperta quando Ayla scese dall'auto con la lunga, folta treccia trattenuta da un nastro che le ondeggiava liberamente sul petto. Persino la nonna, che era molto severa su tutte le questioni di forma, le sollevò il mento e disse: «La nostra Ayla sta diventando proprio una bellezza, ha preso da Maya». Io invece ero deluso. A mia memoria, Ayla aveva sempre indossato abiti che né io né nessun altro aveva mai visto a Calcutta. E ora, eccola qui, con un semplice sari bianco bordato di rosso, identica a qualunque ragazza che rientra da una lezione al College Bethune. Non trovando altro da dire, le chiesi se si ricordava di quando eravamo bambini e lei e Robby venivano a Calcutta d'estate. A quell'epoca noi tre avevamo l'abitudine di andare nella stanza di Tridib quando venivamo assaliti dalla noia e di restare ad ascoltarlo nella calura immobile e afosa di quei pomeriggi, mentre lui se ne stava sdraiato sulla stuoia, tra i cuscini, il fumo della sigaretta che gli saliva a spirale tra le dita e ci parlava con quella sua voce morbida e profonda della differenza di comportamento tra i viperidi e gli elafidi o degli affreschi dei templi di Karnak oppure delle origini del catamarano. E di quando, un'altra volta, io e Robby, avendo deciso di diventare esploratori del quartiere abbandonato, eravamo corsi nella stanza di Tridib per chiedergli qualche rupia prima della nostra partenza. Lui aveva sorriso, aveva continuato la descrizione zeppa di dettagli impressionanti dei riti di circoncisione delle tribù del deserto. Poi, con gli occhiali luccicanti, aveva aggiunto: «Dunque, prima di partire dovreste decidere se volete che ai vostri pisellini venga fatto tutto ciò qualora foste catturati». Chiesi a Ayla se si ricordava il gesto istintivo con cui io e Robby avevamo portato le mani all'inguine e come ci eravamo arrabbiati quando lei si era messa a ridere. «Pura invidia della vagina», disse ridendo, mentre io cercavo di restare impassibile, come se fossi abituato alle ragazze che usano parole simili. Ma capii che se n'era dimenticata. Allora le chiesi se ricordava gli stratagemmi che adottavamo per spingere Tridib a raccontarci dell'anno trascorso a Londra durante la guerra. Quanto tempo restavamo chini a osservare le sue fotografie quando riuscivamo a persuaderlo a tirarle fuori e il modo in cui lui ci descriveva le persone ritratte, puntando il dito ora su Mrs. Price, che teneva in braccio May, ora su suo fratello Alan, con il braccio ferito, che pendeva senza vita lungo il fianco, ora su suo marito Snipe, che aveva l'abitudine di curare la propria nevralgia con yeast ricostituente, la circolazione con grani di bile, il mal di schiena con compresse di corteccia surrenale Dawn, il fegato con Andrew Salt, Snipe, che usava mentolo per il catarro e che una volta aveva mandato Tridip dal farmacista in West End Lane a comprare una certa colla che avrebbe evitato alla sua dentatura di essere scossa dalle bombe. Ayla rispose con un cenno di assenso del capo, un po' sorpresa dalla puntigliosità della mia memoria. Aveva ricordi vaghi e piuttosto imprecisi. «Ma come puoi aver dimenticato?» gridai. Lei fece spallucce e corrugò la fronte per la sorpresa, poi rispose «È stato tanto tempo fa. Mi chiedo piuttosto come tu possa ricordartene». Naturalmente, per me, non era affatto un problema. Cercai di spiegarglielo, ma pur avendone parlato spesso, né allora né in seguito sono riuscito a farle capire che io non potevo dimenticare, perché Tridib mi aveva regalato mondi in cui viaggiare e occhi per guardarli. Lei, che aveva girato il mondo fin da piccola, non poteva capire quale significato avessero le ore trascorse nella stanza di Tridib per me. Un ragazzino che non si era mai allontanato da Calcutta per più di qualche centinaio di chilometri. Talvolta mi capitava di ascoltarla mentre parlava con suo padre e sua madre dei caffè di Plaza Mayor di Madrid, dell'aria frizzante di Cuzco, e mi accorgevo che quei nomi, che per me erano un magico talismano per il solo fatto che Tridib me li aveva indicati sulle pagine consumate del suo vecchio Atlante, avevano per lei la stessa insignificante familiarità che il lago aveva per me e i miei amici. La stessa scontata intimità per cui la sera, al ritorno dal parco, ci fermavamo e, sbottonati i pantaloncini, indirizzavamo le nostre pipì tra le sbarre arrugginite della cancellata. Quando mi recai a Londra, 10 anni dopo, succedeva spesso, se Ayla proponeva di andare da qualche parte, magari al cinema o a Brixton o in un nuovo ristorante vietnamita a Maida Vale, che io mi mettessi a saltellare, gridando «Sì, sì, andiamo con la metropolitana». Lei scoppiava a ridere e mi prendeva in giro. Neanche dovessimo salire sul dannato Concorde. Per lei la metropolitana era semplicemente un mezzo di trasporto veloce. Si irritava di fronte alla mia eccitazione quando salivamo sulle scale mobili. Mi teneva d'occhio mentre mi giravo a guardare gli annunci pubblicitari che lampeggiavano sulle pareti alle nostre spalle. Restavo senza fiato nell'odore sotterraneo di elettricità, umidità e deodorante stantio. Mi spingeva con impazienza, per amor di Dio, smettila di comportarti come un coltivatore di tapioca del terzo mondo. Non è altro che una dannata metropolitana. Non riuscivo a persuaderla del fatto che un luogo non può semplicemente esistere, deve essere inventato con la propria immaginazione, che la sua Londra concreta e indaffarata non era meno inventata della mia, né più o meno reale, solo molto diversa. Non era colpa sua se non riusciva a capire. Infatti, come era solito dire Tridib, le invenzioni in mezzo alle quali viveva si muovevano con lei. Così, pur avendo vissuto in molti luoghi, non aveva viaggiato affatto. Durante tutta la sua infanzia, ogni volta che tornavano a Calcutta per una vacanza, portavano souvenir del luogo in cui avevano vissuto in quel periodo. I suoi genitori portavano oggetti di ogni tipo, marionette indonesiane di cuoio, improbabili sgabelli nordafricani con gibbosità simili a quelle dei cammelli, ma Ayla portava con sé un solo genere di ricordi e io ero l'unica persona a cui li mostrava. Scivolavamo fuori, all'ombra dei serbatoi dell'acqua sul tetto di casa loro, e lì, con un piccolo sorriso ermetico, tirava fuori una grande cartella di cartoncino. Si trattava sempre della stessa cosa e con il passare del tempo assunse per me un significato uguale a quello che aveva per lei. Erano gli annuari delle scuole internazionali di tutte le città in cui aveva vissuto in quel periodo. Erano sempre pieni di fotografie. C'era un ritratto di ogni studente e poi pagine di altre foto, gruppi di amici, feste, partite di tennis, classi al completo. Per molto tempo non riuscii a credere che fossero davvero state scattate a scuola, perché ragazzi e ragazze stavano tutti insieme e per di più nessuno era in divisa. Ai miei occhi, gli abiti che indossavano in quelle fotografie avevano a che fare con la scuola non più dei costumi del circo. A un certo punto, Ayla indicava se stessa ed eccola con i jeans o una gonna. Una volta indossava addirittura un gilet persiano di pelle d'agnello. Le migliori amiche di Ayla erano sempre le ragazze più belle, più in gamba e più intelligenti della scuola. Me le mostrava nelle fotografie dei picnic e delle feste mascherate. «Ci siamo andate insieme noi tre», mi diceva, «e abbiamo passato l'intera serata a chiacchierare tra di noi. Avresti dovuto vedere come ci ronzavano intorno i ragazzi, ma Teresa aveva deciso che quella sera noi non avremmo ballato, proprio così, perciò», e mi indicava Teresa e altre due ragazze snelle che ridevano e facevano le boccacce davanti all'obiettivo. Tuttavia, per qualche ragione, sebbene mi raccontasse ogni particolare di quelle feste e balli, quel che aveva detto e fatto e come era vestita, Ayla era sempre inspiegabilmente assente nelle fotografie. Una volta, quando avevamo 14 anni, mi mostrò la foto di un ragazzo che a me sembrò un uomo adulto, con un volto da attore americano, le mascelle quadrate e la fossetta nel mento e lunghi capelli neri che gli scendevano ondulati sulle spalle. Si chiamava Jashmed Tabrizi, era campione di scherma e quell'anno il padre gli aveva regalato una BMW sportiva per il suo compleanno. «Non può ancora guidarla», mi spiegò, «perché non è abbastanza grande, ma un giorno il loro autista l'ha portata davanti a scuola. È rossa come un rossetto e non appena avrà la patente, una domenica andremo alla spiaggia di Pattaya, a poche miglia da Bangkok». Poi, di slancio, guardandomi di traverso, aggiunse: «È il mio ragazzo». Tuttavia, poche pagine dopo, in una fotografia della loro classe, eccolo proprio in primo piano, al centro della prima fila, che sorride mostrando i denti, le spalle larghe, di tutta la testa più alta dei suoi compagni, le braccia intorno alle spalle di due sorridenti ragazze bionde. E prima che voltasse pagina, riuscì a scorgere la testa di Ayla a un'estremità della seconda fila, un po' in disparte, seria, con indosso una semplice gonna grigia e un libro sotto il braccio. Si accorse che l'avevo notata e quando la settimana dopo sfogliai di nuovo l'annuario, vidi che quella pagina era stata strappata. Sentii un nodo alla gola perché all'improvviso pensai che, dopo tutto, lei non era così estranea al mio piccolo mondo puritano in cui i bambini vengono mandati a scuola per imparare come mantenersi fedeli al proprio rango, dimostrandosi all'altezza nell'aula degli esami.